titolo? No, no, al momento stiamo lavorando, stiamo formando ancora la redazione. Dovremmo essere 10 redattrici fisse. 10 redattrici. 8 qui a Bologna, 2 a New York. Ah, ok. E quella di New York la conosco. Sono due. Una la conosco. Forse. Matilde. Ti ho fregata, eh? Ma la conoscono tutti. Ti ho fregatissima. No, io non la conosco. Il Gigliola non la conosce. Gigliola non la conosco. Ma è Gigliola con la G o con la senza? Con la G. Con la G, Gigliola, come Gigliola Cinquetti. Ma invece questo qua con la barba chi sarebbe, scusa? No, non fa parte della nostra redazione. No, questa è un'altra cosa. Penso che c'entri con quelli di là. Ah, ecco. Sì, io sono la voce narrante e cantante dei Roy Noir, e quindi mentre gli altri sono di là che stanno accordando gli strumenti, io che notoriamente faccio il cantante non perché sia capace di cantare, ma perché non ho voglia di fare una beatissima niente, e allora lascio a loro il lavoro e poi dopo io vado a fare il frontman, lo sborone davanti a tutti, ecco. Mi sembra un'ottima idea e soprattutto complimenti per la sciarpa, perché qui dentro ci sono 48 gradi e tu hai il maglione. Ma e anche la per la voce, scusatemi. No, hai ragione. Si sente che è la voce dei. Ma tu non dovresti essere. Roy Noir. Che mi sembra che sia. Roy Noir. Molto bene. Adesso è bella che anche la maglietta di Stefano. Grazie, sei cara. E, no, che fra l'altro anche voi siete lì di là con i maglioni. Comunque, bei maglioni anche quelli. No, fra l'altro io li ho alzati. Ma loro parlano? Loro parlano, però secondo me nessuno ha premuto lì. Per cui tu prova a schiacciare quello, ecco, e puoi alzare anche il volume. Ecco, adesso se parlate vi sentiamo. No, ci devo. Cioè, perché non ci vai? On air, okay, ecco, ok. Adesso ci siamo anche ma noi. Pensa. E questa voce di chi è? Questa è una voce di uno dei vari Stefani. Esatto. Poi c'è un altro che invece fa le foto. Che si chiama Stefano anche lui. Ok. E poi invece Francesco lo conosciamo, detto anche Stefano Nero, spaventoso. Spaventosissimo. Ma non sono tutti, ce ne sono ancora. No, c'è una gran bionda che però si nasconde. e poi c'è tipo Matt Damon quando era giovane alla batteria. Lui dopo poi lo ragazzi dobbiamo. Immagine del gruppo. Ragazzi immagine è nascosto, dov'è? Eh beh, ovvio, spunta solo nei momenti in cui serve. Ho capito, cioè quando va alla radio. Quando va alla radio. Giustamente. Lateralmente. Detto tra noi, siete pronti per fare il primo pezzo? Sì, se proviamo. Allora vai, 1, 2, 3, 4, andate. Come si chiama? Ma c'è anche un batterista che però non lo vedo. Io lo vedo io perché. Ok. Tu vuoi andare a cantare di là? Non so, no, tu canta di qua. No, sarebbe canta di qua. No. Se gli dai un microfono. Allora ti do. No, gli diamo questo qua arancione, questa banana arancione. Ma mi sento solo di qua. Ma vieni a guardare. Senti, sei brutto, sporco e cattivo. Ah, no, ma se vuoi andare a cantare di là, prendi quello e vai a cantare di là, non c'è problema. Sì, sì, sì. Ma dai. Però devo dare la cuffia lunga. Ecco, prendi la cuffia lunga, il microfono corto. E la banana vedi un po' tu. Comunque secondo me potete partire. Aspettiamo Brunoschi che arriva. Aspettate Brunoschi che arriva. Io magari sì, abbasso questa musica qua. E poi magari vi abbasso anche voi. Mi sembra un po' alta la Libanez nera. Okay. Mi sembra un po' alta. Per il risultato. No, devo essere io, sai. Ah, sei tu? Ho abbassato. Ok. Ho abbassato anch'io. Comunque. Ecco, è arrivato anche il ragazzo immagine. Potete. Vai. Partite. Okay, vai. Questo, un microfono per te. Ecco. Vai. Sì. Sì. 3, 2, 1, vai. Roy Noah. Guardi selvaggi tuoi, parliamo di un muro vuoto, funamboli su seta di veleno. Fly to the sky. sky. Sotto la pelle, la tua pelle trasuda orrori. Applaudirvi da soli, ci perché applaudiamo da soli, altri, sì. Altrimenti applaudendissimo. Versione calda. Adesso vi è venuto caldo, se volete potete aprire la porta se non volete morire. Come si chiamava questa canzone? Muro vuoto. Che voce che hai, te mi... No, è che io mi confondevo con le cuffie perché ti sentivo anche fuori dalle cuffie, essendo che eri a 30 centimetri da me. E poi volevo anche rassicurare Feda sui volumi, è tutto okay. Nessuno è morto, penso che Gozza ci telefonerebbe se ci fossero dei problemi. Lo conoscete Gozza? Sì. Ah. Com'è che non vi si sente più voi? Lo saluto. Ah, ecco. Non lo so, adesso si sente. Perché vi avevo abbassato un attimo, perché altrimenti... E questo è un pezzo dal vostro nuovo disco dell'anno scorso, nuovo ma un po' dell'anno scorso. Beh, per la maggior parte delle persone è nuovissimo. Esatto, io infatti sì. Non l'avevo mai visto. Ma infatti, perché tu sei distratto? Io sono un po' distratto, infatti il disco si intitola Funamboli su seta di veleno, tra esatto. Parentesi, distratto. No, distratto l'ho messo io. Sybil Vane, chi è Sybil Vane? Un insegnante come te non sa chi è Sybil Vane, però dai, adesso fai una brutta figura comunque. È una delle mie specialità. Facciamo un po' di cultura generale. Sybil Vane è il personaggio, uno dei personaggi femminili principali della letteratura internazionale, soprattutto della letteratura decadente. È la protagonista femminile, una delle protagoniste femminili del ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, quella che si suicida perché Dorian Gray non la troverà più affascinante nel momento. Pensa poco bene, attento. Sono passati quei 25 anni. È un topos letterario. Sono 25 anni almeno che è distratto. Poi so dire solo queste due parole: Sybil Vane, Dorian Gray, topos letterario. Poi non so cosa voglio dire neanche. Ok, bene. È sufficiente per sostenere. Io volevo dire che ci interessa molto Sybil Vane. Sì, come personaggio. Certo, voi che siete dei topos in quanto donna. Anche ma perché dunque in questo... realtà sì. La femminilità che vorremmo andare a trattare noi è di segno diametralmente opposto, col cavolo che ci si vada a ammazzare per uno, no? L'ovarismo ha già dato di brutto. Qua abbiamo chiuso con l'800, ci tenevamo a dirlo. Sì. E anche col 900, se stiamo bene attenti. Anche col 900. Sarebbe anche ora di chiudere col 900. E adesso che cosa facciamo? Com'è questa nuova situazione politica per il per la femminilizzazione del mondo? Cedo la parola all'inviata lei. Gigliola, sì, no, perché non sta andando Gigliola bene, col GL sarà l'inviata del nostro programma. Però è stato bello l'8 marzo, no? Sì, non lo so, perché sai che eri distratto anche quel giorno. Io ero a Torino che insegnavo e ho fatto questo numero. Siccome io sono molto precario, scioperare per me diciamo che era un'opzione un po'. No, allora ho detto io ho questo gruppo quasi segreto in realtà, cioè io comunico con i miei studenti tramite questo software che si chiama Edmodo e praticamente io scrivo e loro mi sentono. E allora ho scritto solo a loro senza che il direttore lo sapesse, adesso magari se mi ascolta lo impara, che li avrei segnati tutti presenti. Di modo che così non potevo scioperare, però loro erano tutti presenti, pensando che sarebbero venuti in pochi, invece sono venuti lo stesso tutti. Scusami, il senso dello sciopero non è proprio quello di essere assenti? Il senso dello sciopero è quello di essere assenti, sì, certo. Di figurare assenti, sì, però. Quindi hai sabotato lo sciopero? Sì, esatto. Bravo, Ho fatto esattamente il contrario. No, quindi, ho permesso. Se ti sente il direttore, ti fa un applauso. Beh, esatto. No, ho permesso. Sono andati tutti a scuola. No, perché siccome in Accademia la presenza è obbligatoria. Io invece ho permesso a loro di andare alla manifestazione in Piazza Castello ed essere onnipresenti, ubiquamente onnipresenti alla mia lezione, no? Ma per torniamo cui, non so, al Novecento. Torniamo al Novecento, sta andando male. No, a parte che torniamo agli anni 2000, sta andando malissimo. No, sta andando abbastanza, un po' male, un po' bene. Carolina, ti ho lasciato... Scusa, sei rimasto. No, di che cosa tratterà? Politiche, scusa. Certo. Cosa c'entra? Come cosa c'entra? Perché, scusa, il vostro non è un programma politico? Non... Secondo te, quando quattro donne si trovano per i fatti loro a parlare, di cosa parlano? Di politica. Di maglio e cucito, che bravo. Cinetto, punto. È già più vicino. Punto croce. Ricamo. Cucina estrema o estrema cucina estrema non è male. Ad esempio stavamo pensando venendo in qua, sì. A vedere quali indagini poter fare, sì. E ad esempio noi interesserebbe probabilmente andare a sperimentare lo speed dating. Lo speed dating, tu l'hai fatto? Voi una droga pesante, voi conoscete? Io non ho mai fatto lo speed dating. Qualcuno di voi lì di dietro ha fatto speed dating? Mi sembrano un po' di una certa età per aver fatto lo speed dating. In autobus. Quando si andava a scuola. Che scuola vai? Marcoli, ok, ciao. Quello era tipo speed dating. l'antesignano dello speed dating. Sono i primordi. Esatto. Quando ancora i social network. Io ho fatto gli Aldini con la linea d'autobus. Si passava davanti a Marconi, che era prevalentemente femminile. Quello è il momento di speed dating, proprio speed. Ah, perfetto, esatto. E loro naturalmente ti mandavano a spendere. Sì, sì. Ho capito. Lo speed dating. Sì, insomma, i nostri temi, visto che comunque siamo su una fortunatamente siamo state accolte. Tutte single, siamo state accolte in questa radio. Vi fotografo le gambe, visto che non posso fotografarvi. Ecco, a cavallo le gambe. Vi fotografo le gambe perché non posso fotografarvi. Questa radio è indubbiamente, fortunatamente per la città, è una radio che di politica la tratta in maniera sincera, schietta, senza nessun tipo di... ma mettete il microfono quando dici la frasina, perché e noi abbiamo deciso di ricavarci questa oretta che sarà 333-180-94-94 se volete intervenire via SMS o WhatsApp. Scusa, ti ho interrotto. No, ma quando sarà il programma? Sarà dalle 11 a mezzanotte, probabilmente di mercoledì, a partire da maggio. Come mercoledì? Allora, insomma, è ancora in via di definizione. Ho capito. Sì. Perché prima aveva detto marzo, aprile, adesso è già maggio. No, era venerdì. Cos'era? Era estate, settembre. Se pioveva, ottobre. No, anche perché al giovedì lo sappiamo che c'è uova, sode e noci, per cui alle 23 non si può il programma magnifico di Riccardo Lolli. Lo so. Lo sai, per cui... Lo ascolto. Lo ascolti? Ascolto, è bello, Radio 3. Ascolti radio 3 e Lolli. No, ecco, questa è una cosa che in radio non si dovrebbe dire, soprattutto a meno che non sei su Radio 3, ma visto che siamo su Radio Città Fujiko 103.1 FM, devi dire sì, ascolto sempre. Io in realtà io ascolto sempre la trasmissione prima di noi, che si chiama Camera Organica. Sono molto bravi. Delle volte fanno la musica che non mi piace, delle volte oggi mi piaceva. Ah, bene. Sì. E invece la musica, musica che sentiamo dal vivo non mi piace, però fate un altro pezzo. Che dovrebbe essere da quanti minuti? Ma chi se ne frega, voi fate un altro pezzo. Sono in regia io oggi, dai, fate un altro pezzo. Vai, che non duri. Noi abbiamo la suite per coro e orchestra che dura più o meno una ventina di minuti, al massimo, proprio al massimo. Molto bene, siamo prontissimi. Vado? Vadi. Vado io, perché inizio io. Vorrei andare via lontano, altrove, qualunque posto è troppo freddo per me ormai. Ma dove? C'è del genere questa sera a Radio Fujiko. Ma sì, dai. Non applaudo io, da solo. Bravi. Che sleghi. Ma no, dai, è banale. Non applauda nessuno. Applaudisca, come si dice? Alla chitarra solista, il maestro Stefano Gazzotti. Olè. E poi? Poi basta. Basta, c'è solo lui. Beh, ci ha parlato di Slaghi, chi Slaghi? Allora. Mi sembra giusto. E il batterista come si chiama? Si chiama Andrei. Andrei. Fatti vedere qui in radio. Vabbè, ecco, ecco, così ti riprendiamo meglio. Lui si presenta autonomamente, è un autopresentante. Bravo. Però sono carini dalla Russia, sono venuto dal cielo per aiutare questi poveri disgraziati. Grazie. Ovviamente sto scherzando. Però molto piacere di suonare con loro, devo ammettere che sono un ottimo gruppo e degli ottimi compagni di sbronze. Esatto. Ho capito. Di trattoria. Invece no, il vostro uomo immagine. Andrei, se mi posso permettere, ha dato veramente una ventata di freschezza e di energia al gruppo e quindi lo ringraziamo per questo. C'ha solo un unico piccolo difetto che potrebbe che potrebbe essere nostro figlio. E questo è un commentario. E questo, insomma, questo... noi gliela perdoniamo. Esatto. Mi sembra giusto. Effettivamente è un brutto difetto quello. Dite, care piccole segrete signorine, fermi ferraie, qui siete un po' in un angolo qua effettivamente. Vabbè, con tutta sta braga. C'è della gran braga stasera effettivamente. No, ogni tanto contrario. Siete un attimo inquietate da tutta questa braga. Pericolosi un paio. Perché questo anno era l'anno della sorellanza estrema. Allora siete contenti che vi ho portato i Roy Noir. Come di uomini ci mette un po' in difficoltà. Ho capito. Siete contenti di mettere in difficoltà queste due, voi? Certo, senz'altro. Infatti. Non è più l'8 marzo. Gente che ha fatto le Aldini. Siamo venuti apposta. Sai che addirittura arriva dal Fioravanti, che era ancora peggio. Ah, ecco, ancora peggio. Voi forse non siete nessuno dei due di Bologna, per sapere che cosa intendiamo. Non lo so. Non lo so, effettivamente è una buona risposta. È vero. Detto questo, è arrivato l'orario simpatico delle pubblicità, per cui vi abbasso a tutti e metto non sulle. Ma avevate delle rubriche di solito? Una volta avevamo delle rubriche, ma perché siccome Fedra volta, oggi non c'è, io faccio un po'. Ho ascoltato anche voi. Io faccio un po' quello che mi pare. Tipo? C'è questo minuto di Zino di solito. C'è un minuto di Zino. E sai che non capisco niente da questa playlist che mi ha fatto Feda. Allora, Coxo 20, questo è il vino, ok. Cioè, ma quando Dopodiché... non c'è ti manda pure le playlist, ma... Ah, eccola qua. Che invadente. Quick, jingle. No, Feda è molto invadente. Quando non c'è, è spaventosa. Cosa è successo? Fa queste cose qua, cioè, quando Fedra non c'è praticamente mi dice che cosa devo fare lo stesso. La rubrica di Zino, come il nome di un cinese. Corre, corre il carnevale, con il bene e con il male, con le maschere sui visi, con le lacrime e i sorrisi. È un mondo alla rovescia e non sarebbe neanche male se non fosse per quegli bruciore di stomaco che da un paio di giorni mi tiene compagnia. La zuppa di legumi era forse troppo piccante anche per un allenato come me. Fortunatamente ci sono altre cose che possono distrarmi da questi guai. Innanzitutto il tempo, quello che fa e non quello che passa. Sto fissando fuori dalla finestra una specie di ciclone subtropicale e l'orologio in fondo alla sala continua a ricordarmi che tra qualche minuto ci sarò in mezzo, sempre che non smetta. Non ho neanche un ombrello. Nell'ultima settimana ne ho fatti fuori 3, cioè il vento me ne ha fatti fuori 3. In questo mondo alla rovescia anche gli ombrellai fanno ormai gli ombrelli con la scadenza, gli arrotini le lame che non tagliano e i vinai il vino che non ubriaca più. A proposito, mi sono sempre chiesto, gli osti che lo vendono, cosa compreranno loro di migliore? L'altro spazio è Art Gallery e bar culturale. www.quicanapa.it. Cercaci anche su Facebook. Cox spaziale. Ma io mi ricordo anche questa voce qui. Anch'io. Di chi è questa voce? Questa è Sheena E. Sheena E. Sì. Ah, Sheena E, il programma che c'era. Sheena E, perché Elena di Sheena E. Di E, come E. da non confondere con Sheena B. Ma allora è vero che lo pronunci proprio bene l'inglese? No, è un falso storico. E dunque siamo tornati a questo Cox Spaziale, siamo su Radio Città Fujiko, ho uno con la barba che mi sta prendendo un microfono in mano e degli altri con le chitarre che mi guardano, ma io invece volevo parlare con le due signore, che cosa, che una con le due signorine è su, cioè fiducia proprio vero. Allora, nome del programma non si sa. Quando è maggio non si sa, però più o meno verso notte, due e si parla la serata, due volte alla settimana. Scusami, ogni due settimane. Ah, una volta ogni due settimane, che è un po' diverso tra due volte alla settimana, una volta ogni due settimane. E di notte quando ci si lascia un po' andare, no? E quando non c'è più la fascia protetta. Ah, ok, per cui di che cosa parlerete? Di politica. Dicevamo prima. Appunto. Perché tu argutamente hai fatto questo parallelo tra la politica. Aspetta che abbasso questi qua di dietro che sussurrano così possono parlare liberamente. E la pornografia. Ok. Parlerete di pornografia. Io vi ascolto naturalmente e vi commento. Io posso commentarvi un po' alla Giffo, che saluto perché ci sta ascoltando, che mi ha appena scritto sul mio Facebook personale come al solito, anziché su 333 180 94 94, mi ha scritto: che cos'è sta merda? E penso che parlasse dei Roy Noir. Siete contenti lì di dietro? Che meraviglia, Giffo è costante. Infatti leggevo questi commenti entusiastici qui sulla chat. Se fanno cagare, perché lui fa l'altro, viene da Vicenza, ma scrive in bolognese, che notoriamente loro a Vicenza ne capiscono. Esattamente. Beh, questo, adesso che mi hai detto che viene da Vicenza, questo mi conforta. Fantastico. Comunque lo inviteremo ai prossimi concerti a spese sue. Lo aspettiamo qua a Bologna. Comunque non vi preoccupate, lui dice così di tutto e di l'aveva tutti. Detto, deve essere sempre quello che l'aveva detto anche un anno esatto, e mezzo è sempre fa, lui, esatto. Per cui lui si mantiene costante nel tempo, esatto, si mantiene ha una certa coerenza. È preoccupato del contrario. Esatto. E poi lo fa con tutti, cioè abbiamo fatto trasmissioni spettacolari di filosofia, anche gente che sapeva suonare bene. Più o meno direi che quelli gli altri che sono venuti più o meno erano al vostro livello. A parte la Roberta Giallo, che è una professionista. Stava già intervenendo una sua fan. No, Non stavo dicendo niente. Questo giffo è un po' così. Fai conto, è tipo Salvini, però meno intelligente. Non interviene, no. In sua difesa, la Carolina non dice nulla in sua difesa. Molto bene. Quando avremo il programma e ci scriverà, diventeremo amici probabilmente. Bene. Al momento non sta. Adesso vedremo. Sì, se ne vedremo. Parlerà. Allora. E dunque, questo programma, hai detto che parlerete di pornografia, comincia già a essere interessante. Ci muoveremo nel mondo della sessualità vista dal punto di vista femminile finalmente. Allora, c'è una cosa. Allora, lei, Gilly, sarà la nostra inviata. Quindi lei ogni sera andrà, cioè in concomitanza con il programma, andrà a sperimentare determinate situazioni e contesti legati appunto a queste nuove pratiche di socialità, chiamiamole, no? Tipo? Speed dating. Lo speed dating. Ah, quello? Speed dating piuttosto che... Andiamo a sperimentare nuovi contesti. Piuttosto che? Qualche suggerimento? Non lo so che cosa li vedo un po' sognanti in questo momento. Siamo totalmente assorti perché voi siete dietro la porta, per cui loro dietro vi la stazione di Modena. Però cioè queste cose qui, il club privé, il club privé, esatto, la dark room, cosa succede nelle dark room? Voi due ci siete state? Sì, infatti io andrò e tornerai nella dark room. Ma al Decadence ci andate? Ci siete mai andati? Andremo anche lì. Ah, attenzione che incontrate però. Sarno. Mercoledì che salutiamo. Che salutiamo caldamente. Che anzi, forse non ci sta ascoltando perché sta andando al Decadence. Vabbè, comunque, con la sua punto vina. Oltre all'inviata. Sì. Oltre all'inviata, noi avremo qui in studio ogni puntata, saremo quattro, tra le tre e le cinque, e decideremo un tema da trattare e lo tratteremo sulla base delle esperienze personali. Ci tengo a sottolineare che questa musica di sottofondo l'hai scelta tu. Io? Sì. Come posso averla scelta io? Io non c'entro niente. Niente. Te l'avrà mandata la tua co-conduttrice? Sì, la scelta. Com'è Fedra. Che si chiama? Fedra. Ha un bel nome però. Sì, un po' particolare. Potresti invitarla al vostro programma con quel quasi nome lì. Quasi, effettivamente. Ah, sembra già. No, ma la cosa apposta, interessante, no? Sì. È che la nostra, insomma, e quindi all'interno di queste puntate ci saranno anche poi il contributo della redazione newyorkese che sarà in chat su Skype. E approfondiremo i temi della trasmissione anche dal loro punto di vista. Ovviamente però vogliamo essere aperte a tutte. A tutte, esatto, giustamente. Vogliamo solo donne, per parlare tra donne di quello che si parla tra donne. Giusto. È giusto. Perfetto. Sì. E molto bene, io non vedo l'ora di ascoltarla. La base musicale, chi la sceglierà la base musicale? Ma sai, ci sono un sacco di donne che fanno ricerca musicale. Sì, ci sono anche un sacco di donne che fanno ottima musica. E c'è anche un sacco di musica che può essere suonata così senza essere fatta necessariamente da noi. Ah sì, certo, basta premere play e di solito questa va. Poi qua a Radio Città Fujiko con i CD alle volte non basta premere play. Tu vai a fare le ricerche sul campo, esatto. Quindi sei l'antropologa del gruppo. Perfetto. Bene. E invece il frontman della band, che sei tu, purtroppo ha. Ma è vero che sei un attore? Ma è vero che sei un attore? Frontman. Ma in un'altra vita, sì. Ho capito. Gli attori fanno spesso. È solo modesto. No, possiamo dire che questo progetto Renoir, come si chiamava il ragazzo di Vicenza? Giffo. Ecco, Giffo. Era Giffo. Se vorrà, insomma, venirlo a vedere, magari cambiare la sua opinione, anche se capisco. No, ma insomma, tanto sua opinione è quella. Ma noi la rispettiamo, lo detestiamo, ma la rispettiamo. E, dunque, il progetto dei Renoir Funamboli su Seta di Veleno è un progetto musicale ma anche teatrale, cioè c'è una narrazione sui favolosi, per alcuni deprimenti, per altri anni Ottanta, visti dal punto di vista sperimentare nuovi contesti. Sì, noi non li sperimentiamo, noi invece rimaniamo ancorati agli anni Ottanta, rimaniamo ancorati agli anni Ottanta e alla wave bolognese dell'epoca, con narrazioni ora comiche, ora poetiche, di grande impatto anche sociale, teatrale. Ma soprattutto sociale. La parola sociale. No, dai, è uno spettacolo divertente, si ride, ci si diverte, si sta in balotto, è una cosa bella, così uno non ha bisogno di andare a fare gli speed date, quelle cagate lì, insomma, va. Lui fa anche. Ma è bellissimo. No, fai un'altra battuta che voglio sentire il batterista. No, che fa... no. Dai, bellissima sta cosa qua, grande. Va bene, dai, su. Facciamo un altro pezzo. Non lo so, è ora. Per quello che non abbiamo anche visto. Hai ragione. No, ma infatti io vi do ragione totale. Se sì, però dai, ma sei vigliacco, però. Ma come devi ragione? Ma come devi ragione totale? Ma dai, che sei la nostra. Volevo dire le due ragazze. Che quando, ecco, quando si frequentava gli Aldini, all'epoca era una scuola prevalentemente maschile, e le poche ragazze che c'erano erano veramente erano valutate moltissimo, anche le più brutte diventavano più belle, quindi sì. Abbiamo valorizzato la donna in maniera totale. Esatto, capito. Ci possiamo fare uno speciale sulle Aldini? Secondo me dovreste fare uno speciale e chiamare Federico Croci, che è rimasto proprio dalle Aldini. Io sono stata 10 anni dalle con Aldini. Uno degli Aldini. C'è gente che non è più uscita. Ma allora io non so mica se sei pronta te per fare questo programma, però. Cioè, 10 anni con uno degli Aldini, secondo me qualcosa ti ha lasciato di indelebile. L'importante è che non abbia fatto per 10 anni gli Aldini. Due figli, due nipoti. È abbastanza indelebile. È abbastanza indelebile. Due figli con uno delle Aldini è un po' spaventoso. Adesso con con però tutto rispetto, a giudicare per, dai per figli voi. Doveva essere veramente tutt'altro che spaventoso. Ah, ecco. No, vabbè, ma succede poi anche. Cioè, i figli possono prendere dalla mamma. Anche. Hai ragione anche tu. A questo proposito vi chiederei di suonare un altro pezzo perché io mi sto un po' annoiando. Va bene. Sì, no, sì, scherzo. Sì. È un pezzo che parla delle è un pezzo, io non so qual è, però mi stanno facendo i mi stanno facendo i segnali di fumo. Io comunque sparo. No, ma magari ditelo. Dico delle problema, no, io dico delle cose a caso che vanno bene per qualunque pezzo. È un pezzo che parla delle schegge del liberismo. Passato il liberismo rimangono le schegge rimangono poi le mazzate di liberismo espresse in questa canzone che adesso io sentirò il primo riff e capirò qual è. Vai. Ma voi siete un gruppo di destra? Siete un gruppo di destra? No, parliamo delle ceneri del liberismo. Ah, poi okay. Ormai queste categorie destra, sinistra, dai. C'è un gruppo e basta. No, mi piaceva come domanda all'inizio di una canzone. Sì. Cioè, quello che voi dovevate fare radiofonicamente era cominciare a suonare. Allora la rifacciamo. Riproviamo. Ma voi siete un gruppo di destra? Della tua indifferenza rannicchiato nella tua coscienza pelosa, il fesso scoppia e chi ci crede si riposa, raccogli briciole di un'altra pietanza, boccone rubato a chi è rimasto senza. Ciò famiglia e chi ci crede dove se la piglia, venduto a poco a chi ruba la grande, perché di prigione ne cadono tante, facciare mani ti pare un lavoro e quel che è di bello se lo prendono loro. Fatto la vita del fuoco una gigantesca rapina. Fasci bene, solo se gli conviene. Ti senti il boss solo se cambi canale. Il grande bordello striscia il telegiornale. Baciare in mani ti pare un lavoro e quel che è di bello se lo prendono loro, se lo prendono loro, e quel che è di bello se lo prendono loro. Yeah. Che dire, bravi. Vabbè, menti sapendo di mentina. Mento sapendo di... Il cliente chiamato non è raggiungibile. Se desidera ricevere un SMS quando no. Il cliente sarà nuovamente raggiungibile, che resti in attesa. Chiamato? Avevo chiamato il numero di telefono a caso. Uno che non mi risponde perché ha paura. No, allora io avevo chiesto se poteva chiamare Giffo, così ci facevamo dare dei consigli sul programma, però non ci ha risposto. Però mi ha scritto una cosa strana, ha scritto sarà almeno un mese che non mi aggiorno sulla sua condizione estetica. Sta parlando di lui è innamorato di una conduttrice di un programma radio e che mette su è una strana che mette su della roba tipo questa, no? Però siccome lui è abbastanza spostato proprio di suo, la Fedra, esatto. Di sì. Ma a me piace tappeti musicali della Fedra, tappeti sonori. Vabbè, ascoltiamo questo tappeto sonoro. Comunque devo dire che loro sono bravissimi. Io pensavo di averli abbassati, invece loro smettono di suonare e non dicono più una parola. Proprio stanno in silenzio, riescono a comunicare tra di loro in silenzio. Ah, per quello totale. Sono bravissimi, scusa. Riuscire ad ascoltare questa trasmissione da così vicino è un onore. Di conseguenza noi siamo qua, ti ascoltiamo. Allora, siete dai, anche la fotografa riesce a fotografare in silenzio. Possiamo parlare? Facciamo... Chiediamo qualcosa alla fotografa. Chiediamo qualcosa alla fotografa, abbiamo bisogno di te. Apri la porta e vieni qui dentro subito, immediatamente, perché altrimenti. Ma è una donna. Che ne sa lei? No. Cioè che. Ti piace come ti chiami intanto? Ciao Sandra. Ciao Sandra, come stai? I fotografi di solito non parlano. Certo. E oggi sì, invece, perché loro hanno bisogno di te. E qual era la domanda, scusa, poi possiamo rifargliela? Carolina, ecco. Qual era la domanda? No, la questione è, noi siamo un po' di donne che vogliamo fare questo programma di cui abbiamo provato a parlare prima. Tu che sei una donna, cosa ne pensi? Nell'altra sala? No, ma tanto non ti sentono, vai tranquilla. Non ho idea di cosa, io non sentivo neanche Bruno cantare, quindi... Ah, fantastico! Non ho idea, certo. Di cosa avete... detto fino adesso, mi dispiace. Va bene. Effettivamente allora lei non era cuffiata. Vuoi ripeterlo tu, Stefano, così lei poi ci dà un commento, così sentiamo cosa ha capito un maschio. No, io faccio così. L'angolo della menzione. Va bene lo stesso? No. Come no? Sì, sì, no, sì. Però sai che così facendo io non riesco più a rimettere la musica di sottofondo, perché dopo devo rimettere lo stacco, diventa difficilissimo. E la menzione ce l'ha dall'altra parte. La menzione me la faccio a memoria, va bene? Al Mambo c'è lunedì e martedì, che sono lunedì è l'11 tipo? 12, no. 12, 13, 14, 13, 14, 13, 14, alle 14 c'è un convegno di due giorni curato da Fabiola Naldi e Claudio Musso, però non mi ricordo il titolo del convegno. Però deve essere molto interessante. Ma sarà bellissimo. È imperdibilissimo. No. Tutto tranne di che cosa si parla. No, io so anche di... No, in realtà, aspetta. È normale. Lui conosce i contenitori, non i contenuti. Fai un jingle te con quella chitarra. Nel contemporaneo è il contenitore a dare la sostanza. Lo so, però... Allora, cosa fa? Allora, è scattato il momento... Allora, intanto, lunedì e martedì andiamo vicino al mare. Poi, a un certo punto andiamo... Come si chiama sto posto? Scatta la cover. Quindi allora noi lunedì e martedì andiamo al Mambo. Nel pomeriggio andiamo verso le 2 del pomeriggio, verso andiamo le 14 al Mambo, andiamo al Mambo e troviamo questo convegno straordinario che si chiama Frameless senza cornice. Con nella Claudio sala conferenza e Fabio Naldi, prego. parte dall'attuale urgenza pratica e teorica di riflettere sull'evoluzione dell'idea di cornice, sia come supporto classico dell'opera d'arte, sia come espansione simbolica, ovvero come contesto, ambiente, superficie, limite e superamento dello stesso. L'ingresso allora, è libero. Questa è una informazione fondamentale. L'ingresso è libero e c'è l'aperitivo. C'è ecco l'aperitivo. Ecco, non dire così perché non è vero, perché al Mambo non c'è l'aperitivo al Mambo, te lo paghi nel bar, nel bar del Mambo. Detto no, adesso caro no, perché in realtà non è vero, perché siccome sono una compagnia di Torino costano ancora abbastanza poco. E tutte le informazioni possibili e immaginabili le troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Io volevo aggiungere che il cantante dei Roy Noir è bravissimo anche come speaker. Tu mi confondi con un altro. Potresti venire se lo a fare, pagate, no, noi ve lo prestiamo. Potresti venire a fare Cox al posto di Fedra. No, questa è una citazione affettiva, adesso a parte gli scherzi. Ma è colta? No, non è colta. Ah, ecco, perché non l'avevo colta. No, è una citazione affettuosa del grande Freak Anthony, che, col quale ho avuto la fortuna di fare qualche spettacolo alcuni decenni fa, e lui appunto quando lo applaudì diceva: no, ma voi mi confondete con un altro. E quindi era una citazione affettuosa per Freak. Un applauso a Freak. Un applauso a Freak, ovviamente. No, lei non applaude mai. Dai, no, è che in realtà gli facciamo schifo per quello che no, non però Freak l'applauso ci vuole, dai. Ah no, le fa male un dito, sì. Ah, giusto, è vero. Sentite qua, il tempo stringe e i cocci sono i suoi. E passa un attimo il microfono a quella bionda lì. È una cosa che interessa qualcuno nel mondo. No, perché ti ricordi che il nostro direttore ci ha detto di non essere autoreferenziali? No, ma io, cioè, lei come indagatrice antropologa si è rotta il dito come? Praticando un'arte marziale. Quale? Che io le praticavo? Brazilian Jiu-Jitsu. Bellissimo. Che è una lotta tipo un wrestling, e mi sono autoreferenziali. un mignolo. Oh, e quanti giorni? Non applaudo. E quanti giorni ti hanno dato? Nessuno. Faglielo dire in brasiliano. Ah, perché tu sai il portoghese. No, lei fa il Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, ok, per cui mena in brasiliano, mi sembra giusto. E si rotola, cioè anche tu, cioè. Io anche mi rotolo, sì. Molto bene. E la band qua di dietro che cosa mi racconta invece in questo momento? Tu comunque con quel maglione di lana mi fai un caldo spaventoso. È a termico anche lui. Cioè, si è tolto pure il maglione bruno che di solito. L'ho visto girare. Ci inviti ad agosto e vengo con lo stesso maglione. Ah, fantastico. Senza neanche lavarlo. Ah, mi sembra. Mi sembra un'ottima idea. Grazie dell'amore per molto bene. Confronti. A questo punto, ahimè, mi sa che ci tocca di salutarci, perché ci salutiamo con un'ultima vostra canzone. Molto volentieri. È uno starnuto da parte dei. No, puoi anche dirlo ad alta voce. Quando la festa è finita, noi. Quando Coxo Spaziale è finito, vi lasciamo con. È bravo. Radiology si chiama il programma successivo. Noi vi lasciamo con Radiology perché la festa è finita, ma continua su Radio Città Fujiko 103.1. Hai ragione, quindi Lolli niente. Ma Lolli lo facciamo se rimane tempo, sì, altrimenti no. Andiamo avanti con i Roy Noir. Molto bene. No, andate avanti, così. Quando la festa è finita, un sogno soffoca la vita. Qualcuno darà la colpa a te, ma tu non devi credere. Pace, banale improvviso, un'ombra scende lungo il tuo viso, cerchi invano di ricordare, ma le lontane fa volare. Come on.